America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Due notizie, due storie, due sviluppi importanti per la giornata di ieri. Il primo, il presidente Barack Obama ha ripudiato il suo generale, il generale che fu l'architetto del nuovo piano in Afghanistan, la nuova campagna militare che deve sconfiggere Al-Qaeda e i talebani. La seconda, siamo già in proiezione verso il G8, G20. La Federal Reserve ieri ha seguito le orme del presidente Barack Obama, ha sottolineato che la crescita è in difficoltà e ha riaffermato che farà il possibile per sostenere politiche espansive. Siamo in rotta di collisione con l'Unione Europea. Today I accepted General Stanley McChrystal's resignation as commander of the International Security Assistance Force in Afghanistan. Nessun individuo è più importante della guerra o delle nostre istituzioni. Queste sono state alcune delle parole del presidente Obama, lo avete sentito prima, mentre annunciava di aver accettato le dimissioni del generale Stanley McChrystal. Dovendo scegliere tra la prova di forza e un gesto magnanimo, Barack Obama ha scelto la prova di forza. In realtà aveva già deciso la sera prima, aveva già scelto il sostituto di McChrystal, il generale David Petraeus, un generale fra i più affidabili, più seri, più apprezzati a Washington, che in questo momento guida il comando centrale da cui vengono coordinate tutte le operazioni militari in Medio Oriente, in Asia, dunque in Iraq e in Afghanistan. Fu il generale Petraeus a reimpostare la strategia militare in Iraq. Dunque il suo arrivo in Afghanistan dovrebbe essere sicuramente accolto bene anche da Hamid Karzai, il presidente afghano, che fino all'ultimo aveva difeso McChrystal, aveva detto che se fosse stato licenziato sarebbe stato drammatico per le operazioni militari americane in Afghanistan e soprattutto per gli equilibri politici interni, per le relazioni fra americani e afghani che McChrystal aveva tanto contribuito, e di questo bisogna dargliene atto, a migliorare. Abbiamo avuto anche alcuni retroscena. Vi dicevo che la decisione del presidente è stata presa nella notte del giorno prima, è stata una decisione sofferta. Il generale McChrystal è un grande eroe, eppure, e questo è un aspetto tragico sul piano umano, era stato poi completamente isolato anche dai suoi compagni al Pentagono. Mi hanno raccontato che ieri mattina alla fine non ha visto quasi nessuno, è un uomo distrutto, è un uomo che ritiene che la sua vita sia rovinata e finita, è un uomo che ha vissuto tutta la sua vita da militare, da soldato, che pensate negli ultimi 7 anni ha preso soltanto 30 giorni di ferie che ha passato con la moglie. Dunque una fine purtroppo molto triste per uno scivolone sui media, che sarebbe stato meglio ovviamente che non fosse mai avvenuto. It is also true that our democracy depends upon institutions that are stronger than individuals. That includes strict adherence to the military chain of command and respect for civilian control over that chain of command. Ecco di nuovo Obama: il dibattito nella mia squadra è benvenuto, la divisione no, ha detto il presidente, ed ha poi spiegato il perché di questa sua decisione. Ha spiegato che McChrystal è un militare di grande valore, ha espresso parole di vero apprezzamento per questo generale, che in effetti è stato un grande eroe sul campo di battaglia. Ma ha voluto precisare il presidente degli Stati Uniti che la sua decisione non è stata presa per rispondere a un insulto personale o per differenze sulla missione, che in effetti McChrystal non aveva mai espresso. Ma Obama ha detto di aver deciso perché la guerra è più grande di una persona, di un soldato, di un generale, di un presidente. Insomma, in situazioni così drammatiche, quando si combatte la guerra soprattutto, non possono esserci eccezioni e dunque poi il presidente ha fatto un appello all'unità. Ecco, in questa sua spiegazione in effetti c'è il riflesso di un conflitto profondo che è avvenuto nei giorni scorsi in questo presidente, perché sul piano della decisione coloro che hanno deciso con Obama si confrontavano con un processo straordinariamente complesso, perché insomma si mettevano in gioco equilibri multipli. Intanto c'era il rapporto del generale degli Stati Uniti col presidente afghano Hamid Karzai, che come vi ho detto chiedeva la conferma di McChrystal. C'era poi la questione della morale delle truppe sul campo, che erano un po' confuse da questa reazione del loro capo. C'erano poi i rapporti all'interno di questa squadra, della squadra del presidente, che è una squadra molto vasta, che parte da Barack Obama, ma include anche Joe Biden, il vicepresidente, fino all'inviato Richard Holbrook, fino al capo del Consiglio per la sicurezza nazionale Jim Jones e tutti i loro sottoposti. Dunque era una squadra che in qualche modo si sarebbe quasi sicuramente sentita avvilita se questi insulti che il generale McChrystal aveva rivolto direttamente e indirettamente un po' a tutti fossero passati poi sotto silenzio. Ecco, c'è anche la prova di Barack Obama, che ha interpretato secondo me fino in fondo il suo ruolo di commander in chief. Ha parlato, devo dire, nelle dichiarazioni di ieri nel Giardino delle Rose della Casa Bianca con solennità, e come spesso gli succede da qualche tempo a questa parte è riuscito, devo dire, almeno giudicare dalle reazioni a caldo, a trasformare una situazione difficile in cui emergevano comunque sentimenti di derisione nei suoi confronti in quella che è stata poi una splendida performance politica. Insomma, alla fine questo presidente perennemente ambiguo, indeciso, e poi alla fine ha scelto con rapidità e chiarezza che sono incontestabili. Ha voluto dare anche un segnale chiaro sul piano politico, sul prevalere delle autorità civili, delle regole e ovviamente delle istituzioni democratiche sulla sfida, per quanto goliardica, di un uomo singolo che aveva scelto con leggerezza di provocare i suoi superiori. No change in the Fed funds rate. The committee will maintain the target rate for the Fed funds rate. Ve lo avevo detto poco fa, la vigilia degli incontri canadesi del G8-G20, la Federal Reserve alla fine segue Barack Obama. E dunque la sfida principale da raccogliere a livello globale sul piano istituzionale resta per Ben Bernanke quella della crescita. Ecco, si preannuncia dunque la continuità di uno scontro fra Europa e Stati Uniti, o meglio fra tesi tedesche all'interno dell'Unione Europea e tesi americane che, preoccupate per il rischio di un indebolimento dell'economia, chiedono di non esagerare con le misure restrittive. La Fed è stata chiarissima, non poteva rassicurare di più il presidente Barack Obama o lanciare un messaggio di sfida ai colleghi della Banca Centrale Europea. Ben Bernanke nel comunicato di fatto ha chiarito che, indipendentemente dal fatto che i tassi di interesse resteranno sul livello zero, lo sono già, e dunque il rischio è che l'effetto di questi tassi di interesse possa essere poi limitato, ma ha chiarito che ci sono altri strumenti di cui dispone la banca centrale, dunque strumenti di intervento, di immissione di liquidità sul mercato attraverso l'acquisto di strumenti finanziari, di altri strumenti, dunque per poter aiutare la crescita e la stabilizzazione finanziaria nel caso che entrambe dovessero affrontare un momento di difficoltà. Il dado è tratto, fra pochi giorni vedremo come gli europei risponderanno a questa sfida che, secondo me, costruttivamente e responsabilmente giunge dall'America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. È uscito proprio ieri il trailer del nuovo film di Sofia Coppola, Somewhere, che uscirà però nelle sale americane soltanto a dicembre. Beh, qual è stata la sorpresa? La sorpresa è stata la colonna sonora del trailer, che Sofia Coppola ha scelto rispolverando un vecchio demo che non era poi neanche mai uscito, del 2006, degli Strokes, I'll Try Anything Once. When I said I can see me in your eyes, you said I can see you in my pet. That's not just friendship, that's romance too. You like music we can dance to. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.